Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. In primo piano la Grecia, sfuma anche oggi la possibilità di un accordo per evitare il default. È una partita ancora tutta da giocare, quella che la Grecia sta affrontando con i suoi partner europei. Oggi qui a Bruxelles i paesi della zona euro si riuniranno per valutare insieme le ultime proposte del governo Tsipras, con le quali Atene vuole disperatamente strappare nuovi aiuti finanziari ed evitare il collasso. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha spiegato stamani: progressi sono stati fatti in questi ultimi due giorni, ma ancora non ci siamo. In ballo ci sono nuovi prestiti per 7,2 miliardi di euro. Il rapporto tra la Grecia e i suoi creditori si è avvelenato in questi ultimi mesi, per via anche di una tattica negoziale greca che molti non hanno apprezzato a Bruxelles e in varie capitali europee. Ancora oggi il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, a poche ore dall'inizio di un vertice straordinario della zona euro, ha spiegato che dal suo punto di vista la Grecia non ha presentato novità sostanziali nelle sue nuove proposte. L'impressione di molti ministri delle finanze riuniti qui a Bruxelles per un Eurogruppo è che una nuova riunione sarà necessaria questa settimana. Gli incontri di oggi rischiano di non essere risolutivi. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Via libera la missione navale europea al prolungamento delle sanzioni alla Russia. Queste le decisioni dei ministri degli esteri dell'Unione Europea riunite a Lussemburgo. La solidarietà non può essere un optional. Riassumono bene le parole del titolare della Farnesina Paolo Gentiloni la decisione storica dei ministri degli esteri dell'Unione Europea riuniti a Lussemburgo, in cui hanno lanciato ufficialmente la prima fase della missione navale europea EUNAVFOR contro i trafficanti. Secondo il capo della diplomazia europea Federica Mogherini, per la prima volta l'Unione Europea prende così seriamente l'immigrazione. L'obiettivo non sono i migranti, ma chi fa i soldi sulla loro sofferenza. Aggiunge, ma il ministro Paolo Gentiloni sottolinea però che si tratta di un primo passo. È fondamentale che si arrivi giovedì e venerdì a un'intesa anche più generale, in particolare sulla ricollocazione dei migranti che hanno diritto alla protezione internazionale. E su un altro fronte, quello della crisi ucraina, il Consiglio degli Esteri ha formalmente approvato il prolungamento delle sanzioni economiche nei confronti della Russia per altri 6 mesi. Le sanzioni scadevano a giugno e sono state prolungate fino a quando la Russia non terrà fede agli impegni presi nell'accordo di cessate il fuoco di Minsk. Immediata la risposta del Cremlino, la Russia risponderà seguendo il principio di reciprocità alla base dell'approccio russo sullo scambio di sanzioni, quindi idem fino al 31 gennaio 2016. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Turchia sta dando una lezione al resto dell'Europa su come si può affrontare il problema di un flusso imponente e costante di persone in cerca di protezione internazionale. La pensa così Adele Gambaro, presidente della Commissione Cultura del Consiglio d'Europa. Mentre nell'Unione Europea si negoziano piccole quote e si lasciano paesi come l'Italia e la Grecia soli ad affrontare le tragedie del mare, la Turchia ha investito 6 miliardi di dollari per dare assistenza ed asilo a 2 milioni di rifugiati siriani. Circa la metà di coloro che sono fuggiti da quel paese, conclude Adele Gambaro. Una nuova unità di polizia gestita da Europol darà la caccia dal 1 luglio agli account dell'ISIS su social network, con l'obiettivo di smantellare la macchina della propaganda online del gruppo. La nuova squadra, ha detto al Guardian il direttore di Europol Rob Wainwright, lavorerà in stretto contatto con i social media per identificare gli account più importanti a livello internazionale che vengono in genere utilizzati per reclutare nuovi foreign fighters. È l'ultima notizia di Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.